Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Verso sera, quando l'ombra del monte invadeva la campagna, si svolgeva il rito della partenza. Il mezzadro metteva in ogni tasca della bisaccia un cestinetto di vimini con l'uva o coi fichi o con le mele o le pere, e sopra le debordanti lattughe o i finocchi e i sedani, il trofeo di quella interminabile battaglia, e montato in sella risaliva la china della strada, la china della sua vita. Il cavallo ammaestrato e pensoso della greppia guadava il rigagnolo a monte. Poi, da ogni cancello lungo la strada uscivano nella luce del tramonto altri cavalli e altri massari che si affiancavano a Don Sebastiano, e ciascuno pareva rendere conto a Dio nei tranquilli conversari della sua giornata. Si formava come un piccolo corteo che procedeva compatto fino all'abbeveratoio, all'ingresso di Nuoro. Dopo si scioglieva in mille rivoli senza un saluto, ciascuno verso la sua casa, e gli zoccoli dei cavalli che trovavano la strada senza bisogno di briglie scintillavano nella notte. Anche i figli scendevano spesso a piedi a Isporosile, perché l'uva della valle era più saporosa e i fichi stillavano miele. E poi c'era la vasca, che sostituiva quel mare favoloso, reso inaccessibile dai 20 chilometri di distanza e dalla impossibilità per Don Sebastiano di immaginare una sosta nella vita, per sé e per gli altri. Ma la loro meta preferita era l'Ocoi, la vigna in collina che Don Sebastiano aveva lasciato alle cure di zio Poddanzu, poiché ormai camminava da sé. Era un vasto rettangolo, quasi un quadrato di vigna, in mezzo alle tanche sterili dei vicini, dominato dal nuraghe dentro il quale in 2000 anni era cresciuta una quercia. Don Sebastiano aveva piantato la vigna con le sue mani, perché sue erano le mani dei 100 braccianti che, sotto il comando di zio Poddanzu, ma non c'era allora chi comandava e chi obbediva, si viveva secondo il proprio stato, scavavano i solchi profondi della barbacana. Suo era il loro sudore, sua la loro rassegnazione. In mezzo a quel deserto era venuta su, in qualche anno, un'oasi di verde, che era il primo segno di vita per chi arrivava a Nuoro da Orune e da Bitti e poneva fine all'incubo della solitudine. Il vino di Locoi era chiaro, sottile e scendeva per la gola come un ruscello. Tutti i nuoresi lo attendevano perché meglio di ogni altro estingueva la sete. Il solo che appena lo assaggiava era Don Sebastiano. L'anno della filossera fu un anno di lutto e di lutto eterno, perché coi vitigni americani, si aveva un bel dire, il vino non fu più quello. L'Ocoi era a un tiro di schioppo dalla città. Ci si arrivava per una strada larga in salita, con grandi curve che scoprivano il monte, e sotto la valle cupa di Marreri, con Montalbo in fondo, disegnato in un cielo che già sapeva di mare. Don Sebastiano passava a cavallo su quella strada, come i pastori avvolti nella mastruca, e non era che un elemento della natura. Ma i figli andavano a piedi, e in quell'atmosfera rarefatta, in quella visione orrida e dolce, in quel silenzio infinito, ricevevano inconsapevoli il tocco della poesia. Il sogno galoppava su quelle brulle lande e si impadroniva di loro, li rapiva a Don Sebastiano. Terribile cosa per chi doveva vivere nel mondo che non ammette diaframmi di poesia. Se ne sarebbe accorto un giorno il più piccolo dei figli, quando avrebbe lasciato il borgo e la campagna e l'Ocoi, e si sarebbe sentito incatenato ad essi tra uomini che non avevano mai visto quelle cose e perciò non potevano comprenderlo. Ma intanto, superata l'ultima svolta, la strada si abbandonava allegra sull'altopiano, sotto il cielo tersissimo, e la vigna già appariva col suo verde o col suo oro, secondo le stagioni, o col suo nulla durante l'inverno, perché la vigna d'inverno si riduce a nulla. Si accedeva alla vigna per uno di quei possenti cancelli fatti, come i carri, di travi di quercia messe per lungo e per traverso e hanno il nome preistorico di Iacas. Anche la vigna era difesa da alte muraglie di pietra a secco, in gran parte affogate nei rovi, che nella desolazione della campagna le davano un'aria di fortilizio. Ma nell'interno, appena varcata Sayanka, c'era un tepore da giardino terrestre. Il vigneto si stendeva come un grande libro aperto e poiché si chiedeva alla terra vino generoso, i ceppi erano tenuti bassi, in filari tanto larghi che pareva uno spreco, senza altro sostegno che una fragile canna alla quale si legavano i tralci. Una grande casa rossa, un autentico dominio, sorgeva nel mezzo su un largo spiazzo e qui Don Sebastiano aveva avuto il suo momento di grazia perché con la prima vite aveva piantato un pino e il pino era cresciuto come un gigante, facendo ombra purtroppo a qualche ceppo intorno che intristiva e moriva. Ma non si poteva tagliarlo perché era diventato un blasone. I figli salivano come gatti per il tronco scaglioso e lassù si abbandonavano al vento che nella chioma del pino c'era sempre, anche quando la vigna intorno bruciava immota nel sole. Del resto, se il pino era il pino e viveva la sua vita solitaria, testimone impassibile degli uomini e delle cose, c'erano nella vigna gli alberi complementari, i fichi dalle scarne braccia che davano i frutti, bianchi o azzurri, due volte all'anno. Crescevano lungo i sentieri inselvatichiti al margine della vigna, ma Don Sebastiano non li prendeva sul serio. Egli non sapeva, nella sua austerità, cos'è un fico che esce dalla notte, imperlato di rugiada, o che cosa un fico diventa nell'avanzare del giorno, quando il sole comincia a entrare nelle sue carni e vi prende dimora fino all'imbrunire. Questo è, anzi, il vero fico, e lo sanno le api che ronzano intorno alla goccia di miele che esce come per un eccesso di vita dal misterioso forellino. Lo sanno i merli che scelgono i fichi uno per uno. Lo sapevano i figli che spesso, quando erano liberi dalla scuola, affrontavano le vampe del mezzogiorno per riempirsi la bocca di quelle gocce di fuoco, senza sbucciarle. Sullo spiazzo ombreggiato dal pino sorgeva, come ho detto, la casa rossa, che poi non era che una tinaia, quando il vino si faceva in campagna, una cucina col focolare in mezzo, una stalla per due buoi e, questo era prodigioso, una stanza inutile che doveva servire al riposo del padrone e naturalmente era piena di attrezzi e di fichi messi a seccare. Ma serbava qualcosa della sua immaginaria destinazione, forse perché aveva le pareti imbiancate, perché zio Poddanzu non entrava mai in quella stanza e se entrava per necessità aveva sempre cura di chiuderla a chiave. Zio Poddanzu, questo non era naturalmente il suo nome, voglio dire il nome che si sarebbe faticosamente ricercato allo stato civile quando sarebbe morto e col nome di Poddanzu, non con quell'altro, si sarebbe presentato a Dio, aveva in Locoi la sua dimora, anche se possedeva una delle casette di Seuna, dove stavano la moglie e le figlie che andavano per servizio da Donna Vincenza. Forse, quando Don Sebastiano aveva messo l'occhio sulla landa che doveva diventare la vigna, ce l'aveva trovato già dentro e intorno a lui aveva recintato e scassato e piantato. Non era un servo, non era un fattore. Era Don Sebastiano rustico, era Locoi e tutto ciò che il notaio aveva creato. Non credo che tra lui e Don Sebastiano corressero neppure rapporti di denaro. Erano nati insieme, cresciuti insieme, invecchiavano insieme. Non si davano del tu perché questa familiarità sarebbe dispiaciuta a zio Poddanzu per primo, ma Don Sebastiano gli aveva battezzato le figlie e così dal bostè, usted, erano passati al voi, che era la giusta misura. Non c'erano tra loro comandi e obbedienze, ma una comune volontà. nel senso che la volontà di Don Sebastiano doveva filtrare nella volontà di zio Poddanzo, altrimenti erano meno che nulla. Quando Don Sebastiano non aveva che Locoi e vi andava tutti i giorni col suo cavalluccio, zio Poddanzo lo aspettava al cancello e lo aiutava a smontare. Poi percorrevano l'uno a fianco dell'altro i filari delle viti e zio Poddanzo, che le conosceva una per una, mostrava le novità della giornata, perché ogni giorno c'era qualcosa di nuovo. Una volta egli aveva trovato secco e rattrappito un ceppo di uva luglienga e mostrandolo a Don Sebastiano gli spiegava che era stata una punta di arcobaleno. Don Sebastiano ascoltava senza sorridere. Verso sera, stanchi e imperlati di sudore, sedevano sullo spiazzo tra i profumi che si facevano acuti del serpillo e del cisto. Il Don Sebastiano rustico, col suo viso bonario, con la sua onesta barba che tendeva al bianco, accendeva il mezzo toscano che il signore non mancava mai di portargli, ma più gli piaceva masticare le foglie coi pochi denti che gli restavano. Don Sebastiano non fumava, beveva un bicchiere dell'acqua del pozzo, sempre gelida e cristallina, e la loro vita passata, presente e futura fluiva nell'antichissimo linguaggio che già nei figli mostrava le contaminazioni del tempo. Ora Don Sebastiano aveva migrato verso altri sogni, verso le terre calde della valle, e zio Poddanzo, anche se di lontano guidava i suoi passi, era rimasto solo a Locoi. Donna Vincenza voleva bene a Poddanzo, come lo chiamava, e lo accoglieva lietamente le rare volte che veniva nella casa con la berretta in mano e gli offriva un bicchiere di vino, ma in cuore suo provava un po' di rancore verso di lui perché, diceva, si respirava tutta quell'aria. Senza Don Sebastiano, i figli erano rimasti padroni della vigna e dello spiazzo, e là il loro mitico zio Poddanzo li riceveva come padroni, ma faceva sentire loro i limiti della proprietà. Per esempio, non permetteva che si piluccassero i chicchi dai grappoli, lasciandoli sfigurati, e sarebbe stato felice se avessero chiesto l'uva a lui, primo perché non avrebbe sospettato di qualche ladro o di qualche estraneo, vedendola tagliata, e secondo perché egli sapeva in quella selva uniforme di pampini dove erano i ceppi del moscatello o dell'altra uva che non fosse da vino. I figli accettavano tutto perché il vecchio era là da tanto tempo prima di loro ed erano stati educati a sentirsi poveri. E poi... Non era vero che zio Poddanzo avesse trascorso tutta la vita a Locoi come una zolla di terra. Nella sua giovinezza, prima che l'Italia fosse l'Italia, gli avevano fatto fare il servizio di leva e lo avevano mandato in mondi lontani, in paesi che egli chiamava Narni, Amelia, Camerino, che erano chissà dove, ma era il mondo che filtrava attraverso quei suoi nomi nella loro incantata fantasia. Ora che ci penso e ho visto la carta geografica, per andare in quei paesi zio Poddanzo doveva essere passato per Roma, ma non doveva essersene accorto perché i ragazzi non gliel'avevano mai sentita nominare. Invece Narni, Amelia, Camerino avevano riempito la sua vita e ne parlava a sera sullo spiazzo quando il sole segnava la fine di un'altra giornata. Ricordava il freddo terribile di quei posti. Una volta, nella libera uscita, avevano visto fra gli alberi strani uccelli enormi, come gomitoli di lana. «Cosa diavolo saranno?» gli aveva chiesto un suo commilitone, sardo anche lui. «Da noi non ce ne sono». E non erano che passeri, i nostri stessi passeri, appallottolati dal freddo. Ma questa era la vita frivola di zio Poddanzo, come il pino, lo spiazzo, le viti. I conversari erano la vita frivola, o almeno esteriore, della vigna. Accadevano in quel rettangolo di terra, sopra quel rettangolo di terra, sotto quel rettangolo di terra, non più grande di un fazzoletto, cose arcane. Forse le cose invisibili di cui si legge nel credo, o almeno testimonianze di esse. Nel cielo tersissimo, quando tutto era pace, usciva dal nulla un nuvolo di storni, si librava un istante e poi rientrava nel nulla. Il cagnolino bastardo, col quale zio Poddansu parlava come con un cristiano, aveva scoperto presso la siepe una lepre che aveva fatto i figlioli, e il cane, invece di fare il cane, si era messo a leccare i leprotti, che si stiravano contenti. Una biscia aveva attraversato lo spiazzo trascinando il suo lungo treno fino ai piedi di zio Poddansu e si era messa a fissarlo con la testolina lucente, lanciando la lingua in rapidi messaggi. Dal fondo della tana i grilli comunicavano con le stelle e in un pomeriggio di agosto, di questo mi rendo io testimone, mentre tutto era d'intorno silenzio, non una foglia si muoveva e il caro del sole se ne stava sopra la vigna, zio Poddansu e i ragazzi preparavano nella stalla lo strame per i due bovi che pascolavano nella lontana tanchita, quando vedono le loro teste apparire dalla mezza porta come grandi e tristi mendichi. Zio Poddansu restò senza fiato. «Presto, presto!» fece entrare le bestie, sprangò tutte le porte e le finestre e rimase in attesa. Dopo mezz'ora il diavolo si scatenò sulla campagna. Sradicò 20-30 alberi, levò in aria pecore e cani che erravano in cerca di scampo. Zio Poddansu riaprì le porte e tutto fu come prima. Questa era la vita profonda di Lokoi, il mistero pagano della natura che si accompagna al mistero cristiano, i buoi, gli asini, le pecore, i re guidati da una stella attorno alla culla di un bambino destinato a morire. In casa di Don Sebastiano non si faceva il presepio a Natale perché non si badava a queste sciocchezze e in fondo si credeva poco, anche se Don Sebastiano non mancasse mai l'ultimo giorno dell'anno al Te Deum della cattedrale e Donna Vincenza, nei momenti di più nera solitudine, sgranasse il rosario con le distratte preghiere. Ma i ragazzi trovavano senza saperlo il presepio nella vigna e questo rettangolo di terra con le sue persone, le sue case, il suo mito apriva i loro cuori al mistero. Se Don Sebastiano avesse potuto immaginarlo, forse non avrebbe piantato la vigna. L'anello che Donna Vincenza, nonostante i suoi crucci e le sue ire contro Don Sebastiano, portava sempre al dito, recava incisa nell'interno la data 5 maggio 1883. Era la data di nascita della nuova famiglia, i Sanna Vuglié, secondo l'usanza. E in questa famiglia poco o nulla aveva portato Donna Vincenza oltre se stessa. Il ricordo di un padre forestiero e quasi straniero, scolorito dal tempo, una madre sarda, la signora Nicolosa, avvolta nel costume di lutto eterno per il marito morto da più di 20 anni. Naturalmente, Dio solo sa che cosa portava nel mondo dell'invisibile. Dopo qualche tempo, ingrandendosi la sua fortuna, Don Sebastiano si era messo la suocera in casa e là essa aveva vissuto lunghissimi anni, consapevole della sua estraneità e perciò testimone impassibile della crudeltà del genero verso la figlia tra il nascere e il crescere dei nipoti. Del resto, se Don Sebastiano fosse stato uomo da mettere in discussione la sua volontà, avrebbe parteggiato per lui. Una tarda sera di maggio, nella casa avvolta dal silenzio, Peppedda, la serva, prese per mano il piccolo Sebastiano, l'ultimo dei figli, che non aveva ancora 6 anni, e lo portò furtivamente su per le scale fino all'ultimo piano. In una di quelle stanzette interne c'era una grossa cosa distesa su un letto e attorno 4 grandi ceri. Il cielo purpureo entrava per la finestra spalancata e ingrandiva la scena. La serva si inginocchiò e fece inginocchiare il bambino, che non capiva che cosa fosse avvenuto perché ignorava la morte. Doveva pensarlo molti anni dopo e poteva anche essere stato un lontanissimo sogno. Di signora Nicolosa, come al solito, non rimase più nulla, neppure il ricordo. O meglio, rimase un suo ritratto in un grande quadro dipinto chissà quando e chissà da chi, ma fu subito sepolto in un vecchio armadio e nessuno lo vide più. Don Sebastiano, invece, portava con sé la fosca presenza della famiglia alla quale apparteneva, dei Sanna Carboni, dai quali era uscito, e che avevano il loro autore in Don Ludovico, primo del nome, il marito di quella Carboni, svanita anch'essa nel nulla. Don Ludovico viveva ancora e doveva vivere o sopravvivere fino a 94 anni, quando si addormentò tranquillamente su una panchina dell'orticello nella sua casa di Santa Maria. I nipoti più piccoli, Peppino e Sebastiano, nella loro suprema innocenza, andavano a trovarlo di quando in quando. La casa era a un solo piano e da un lato posava direttamente su un macigno, che è il modo più economico di fare le fondamenta. Io credo che risalisse ai tempi di Monsignor Roic, perché la facciata era coperta di muschio, in definitiva poco più che una catapecchia, ma in un angolo vicino al portale rossiccio c'era ancora l'anello al quale il giudice della reale udienza legava il cavallo quando veniva da Cagliari, segno che si trattava della casa più importante del paese. Don Ludovico apriva la porta tirando lo scrocco dalla sua poltrona con una cordicella quando riconosceva il bussare timido dei ragazzi, ed essi salivano i gradini della scala santa che finiva direttamente nel salotto. Il tavolato in leggero pendio, le porte che si chiudevano da sole, il tempo scandito dalle campane della chiesa incombente, il dominio della penombra nella quale si muoveva una grande macchia bianca ed era la barba del nonno, alto, ossuto, sempre col cappello in testa, anche dentro casa, non diceva molte parole ai ragazzi, ma andava con passo fermo al comò. Tirava un cassetto che era pieno di quelle bacche rossastre, un poco appassite, che credo siano i frutti del giuggiolo, e ne riempiva le tasche ai nipoti. Don Ludovico era un piccolo proprietario terriero e aveva una campagna che si chiamava Sae Masu, tra Nuoro e Orgosolo. E là, in cima al colle, aveva piantato questo albero meraviglioso, il solo in tutto il circondario, di cui tutti parlavano. Sono frutti, per modo di dire, anzi, non sono che bucce e semi, su per giù come i corbezzoli, che almeno sono selvatici. Ma il vecchio e i ragazzi comunicavano per quei frutti e l'albero era un blasone come il pino di Locoi. Quando Don Ludovico morì e Don Sebastiano venne in possesso della campagna, trovò che era un albero inutile e lo fece tagliare.